casa sono l'ultimo a crepare, ma se guardo la realtà io sono l'ultimo a sperare. È inutile pensare di sparare in un microfono, restando fermi immobili, fissati in un monologo. Finti pervenisti a 360 gradi, poi vanno a parare con coraggio su violenza negli stadi. L'autentica violenza sta in famiglie senza mezzi, gli sogni di un bambino massacrati, fatti a pezzi. L'abito non ha mai fatto il monaco, mi dicono, se noti che è il contrario puoi non rimanerci attonito. Dato che il potere dà divise la giustizia, decidono da farsi ma gomito a gomito. Vedo delle macchine drogate di mediatico, che vivono la vita in modo prettamente statico, dove tal pensiero è una minaccia, lo difendo come dell'ossigeno in debito sott'acqua. Can you fight free? Biforcuta ad un serpente, dove l'ignoranza è da acclamare, mentre un ideale